Pronto? Ciao, sono Graffio. Sì, ero il sisoppo di Havana BBS. In realtà poi il sisoppo di Havana era Mr. Tattle. Era un nome collettivo che ci eravamo dati per indicare le persone che svolgevano una qualche funzione di sisoppo. A noi è sempre piaciuto giocare con le identità e con i nomi multipli. Per esempio, tempo dopo, parecchi di Havana furono per un periodo anche Luther Blissett. Un nome collettivo che poi si affermò come collettivo editoriale e oggi è conosciuto da tutti come Booming. Insomma, sia come sia, Mr. Tattle era il sisop di Havana. Ah, dimenticavo. Havana sta per avvisi ai naviganti ed è nata nel 94. L'ispirazione per il nome ci venne dal personaggio principale di Brazil, il film del 1985 di Terry Gilliam. In genere, il sisop delle BBS, che è un acronimo che sta per Bulletin Board System, svolgevano le funzioni di un sistemista o che possiamo equiparare ad un sistemista di oggi, ossia installare software, manutenerlo, configurare la rete, che poi anche qui la rete in quel periodo era un modem attaccato alla linea telefonica. In realtà però noi interpretavamo il sysop in maniera un po' più allargata, ossia oltre alle funzioni di sistemista, Mr. Tattle svolgeva anche la funzione di help desk, diremmo oggi, ma anche di portavoce e di evangelist, ossia doveva essere in grado di aiutare le persone e i collettivi ad entrare in rete. Oltre questo, Mr. Tattle teneva anche aperta la stanza di Havana, nei giorni stabiliti. La stanza di Havana aveva sede al Forte Prenestino ed era aperta per accogliere tutti coloro che volessero usare la BBS per scrivere e leggere messaggi. Tramite quella BBS sono sorti e si sono rafforzati amori transoceanici che usavano la BBS per scambiarsi messaggi e rimanere in contatto, soprattutto quando, dopo qualche anno di vita, riuscimmo a trasformare le caselle postali della BBS in caselle postali internet. Per farlo ci appoggiavamo al gateway della rete civica romana, alla quale avevamo aderito sperando di affermare principi e diritti universali e dalla quale fummo invece censurati a più riprese. Ma nel frattempo era arrivato il web e tutto cambiò radicalmente e velocemente. Non immaginate quella stanza come un internet point. Era una piccola stanza del Forte Prenestino con schede ed hardware vario ammucchiato sui tavoli ed un computer funzionante, la BBS. Insomma, anche gli innamorati dovevano aspettare il loro turno. Tenere aperta la sede di Havana era anche un modo per diffondere e confrontarci sui nostri ragionamenti, sulle nostre pratiche, sui nostri timori, a proposito delle trasformazioni imminenti causate dalla diffusione massiva del digitale e della rete. Durante le riunioni di Havana si discuteva, si organizzavano iniziative, eventi, lotte, progetti. Non è un caso che molte delle persone che si potevano incontrare a quelle riunioni, gente di Tactical Media Crew, della futura Candida TV, di Radio Onda Rossa, furono poi tra i principali animatori di Indie Media Roma, dal 2000 in poi. Non so dire quando esattamente la BBS smise di esistere, ma fu una morte naturale. Era arrivato il web e la connessione casalinga di internet divenne di massa. La BBS era roba da museo ed inutile. Poi organizzammo l'Hack Meeting 2000 al Forte e tutto cambiò. La rete era diventata più simile a come la conosciamo ora e soprattutto arrivarono un sacco di persone nuove che avevano partecipato al terzo Hackit. E così Havana cambiò e divenne un vero e proprio hack club come ce n'erano decine in quegli anni in giro per la penisola. Io continuo ad appassionarmi al digitale ed a scorgere e cercare di contrastare insieme agli altri i frutti avvelenati delle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie. Havana nel frattempo prosegue il suo percorso e le nostre strade si incrociano spesso.